Pororororo, poroboropo, poroboropo, poroboropo, poroboropo, poroboropo. Mi sono chiesto spesso che cosa fosse il tempo, se in fondo quando ti amo il mondo non lo sento. Mi sono chiesto spesso, tra una sigaretta e l'altra, quale fosse la ragione perché tu fossi così bugiarda. In fondo ho dato tutto, ma questa è anche colpa mia. È che mi piaci perché curi questa bastarda ipocondria. E ho capito che il mondo lo vivo così, con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che in fondo va bene così, anche se siamo distanti. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti. Tanto ti porto con me. Porororo, porororo. Sì, lo so, lo dici spesso, ma è cambiato sto successo. È che quelli come me buttano l'oro dentro al cesso. Non gli danno mai importanza e poi si sentono sempre soli. Hanno il ghiaccio dentro al cuore e hanno i fiori nei polmoni. Ma in fondo ho dato tutto, ma questa è anche colpa mia. È che mi piaci perché curi questa bastarda ipocondria. E ho capito che il mondo lo vivo così, con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che in fondo va bene così, anche se siamo distanti. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti. Tanto ti porto con me. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. Porororo, porororo, porororo, porororo, porororo, porororo, porororo. Distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. Col messaggio che mi è arrivato alla fine.